c'è, mio dolce padrone? Vuoi che io stia zitto? Lo so, ho troppa paura. Ormai ucciderti ti salverei. Ucciderti ti salverei. Ucciderti ti salverei. Salverei, non ti salverei.